I'm Ben Healy. I'm from EF, Benvenuti. Geronimo. Geronimo. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia e del sole, il sole che non arriva in questa notte che ha le ore più lunghe, che non passano mai, in cui ogni minuto dura un'eternità, benvenuti nel giorno del compleanno di Albano a una nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2023 con le voci di Bidon, ovvero io Filippo Cauz, alla mia destra Michele Pelacci. N con la mano, chi noi tifiamo? Nico. Ma tu sai chi è Albano? Certo, Carrisi. E davanti a me un conterraneo del buon Bano, ovvero Leonardo Piccione. Buonasera a tutti, ciao, ben arrivati. Il lancio invece, visto che fanno raccolta di tutte le canzoni che citiamo, il lancio fatto da Michele Pelacci era dedicato a Sfera e Basta, perché questa puntata va in onda niente po' di meno che da Cini, da Cinisello Balsamo, dall'albergo Best Western, stanza numero 415 se non sbaglio. Corretto. Sto migliorando con la memoria, non mi ricordavo la password del wifi, ma adesso mi sono ricordato anche quella. La voce che ha introdotto la puntata era quella di Ben Healy. Sì, uno dei pochi che oggi non sono andati in fuga, non era in fuga, forse ce l'aspettavamo, ma magari lo vedremo all'opera domani. Non c'erano dei suoi compagni di squadra, come quasi tutte le squadre oggi avevano qualcuno all'attacco. E è arrivata anche oggi la fuga, ha vinto un fuggitivo, qualcuno che aveva già vinto in questo Giro d'Italia, e siamo felici perché quando vince Nico Denz una, due, tre o mille volte non si può che essere felici. Party for everybody dance. Siamo partiti con Albano, ma in realtà adesso si ritorna a ballare per Nico Denz, anche se c'erano tanti bei corridori che avremmo voluto vedere esultare, ma quando vediamo esultare Nico Denz comunque siamo sempre felici. Sì, anche il secondo classificato di oggi non è una novità, perché per la terza volta in questo Giro d'Italia è arrivato secondo Derek G, ma non svegliamo troppe cose che già saprete se avete visto la tappa. Lasciamo il compito, l'onere e l'onore di raccontarla in breve, come sempre, a Michele Pelacci. Mi sono perso momentaneamente su un titolo che è questo: Mkhitaryan, scudetto, canto Albano. Ma torniamo alla tappa. Direi che è meglio. Inizio sì. Molto movimentato, tanti attacchi e contrattacchi. Poco prima dell'attacco del Sempione si forma un primo drappello di 18 corridori, tra cui Ballerini, Bettiol e Gaviria. Altri 9, tra cui G, Oldani e Clark, si aggiungono in un secondo momento. Altri 2, Mattia Bais e Mirko Maestri, in un terzo momento. In tutto sono 29, se avete perso i conti. Il fuggitivo della prima ora, Bais Davide però, i due fratelli erano entrambi in fuga oggi, vince il GPM del Sempione e torna maglia azzurra. La Ineos lascia il solo Puccio a tirare per chilometri e chilometri, così la fuga prende il largo. 5, poi 10, poi 15 minuti di vantaggio. Ai meno 65 le cose davanti esplodono con un attacco di Bettiol. Poi vanno via però Rex, Oldani e Ballerini, a cui si unisce anche Skunsch. Bravissimo, vedi come hai imparato la pronuncia di Skunsch subito. Ormai la cittadinanza a Riga potrebbero darmela. I quattro non guadagnano mai tanto vantaggio, ma quanto basta per resistere al rientro degli altri fuggitivi, che appunto per rientrare contavano sul lavoro di Bahrain per Pasqualon e soprattutto Movistar per Gaviria. Finché non si arriva allo sprint finale, davanti sono rimasti Oldani, Ballerini e Skunsch. Rientrano però al cardiopalma, diciamo all'ultimissimo, Bettiol, Rex, G e Denz, ed è proprio quest'ultimo a bissare il successo di Rivoli. Sì, come dire, oggi c'è stata una corsa nella corsa nella corsa nella corsa, una fuga dalla fuga, eccetera, eccetera, perché ci sono, sì, volevi dire... Non ho menzionato, il gruppo arriva in ritardissimissimo, quasi a 22 minuti, cambia la maglia rosa, che è Bruno Armirel, della... Bruno Armirel. C'erano i tifosi all'arrivo? Ero io il tifoso, sono contentissimo di questo cambio di maglia rosa. Sì, un po' a sorpresa, non ce l'aspettavamo il cambio di maglia rosa nella tappa di oggi. Poi, a ben vedere, è una scelta anche sensata, se vogliamo, da parte della Ineos. Felicissimo Bruno Armirel, quasi incredulo direi. di questo regalo, diciamo così, che gli è stato fatto oggi. Però prima di parlare di Bruno Armirail, torniamo alla fine della tappa, alla volata che ha deciso la vittoria. Che dire sulla volata in sé per sé, Michele? Non c'è stata storia ancora una volta, no? Anche se poi Dance ha vinto di poco, mezza bicicletta o meno. Sì, sì, sì. Tra l'altro, alzandosi sui pedali, festeggiando, aprendo le mani, ha colpito Guy in faccia. È stato divertente, no? A me ha ricordato... Per Guy forse un po' meno. Sì, sì. A me ha ricordato la Amstel 2019. Cambia tutto, cambia i personaggi, là era asciutto, qua era bagnato, cambia tutto. Ma anche là c'era un 3 davanti, ripresi all'ultimissimo. E anche quella volta chi tirava il gruppo dietro, qui Dance, allora Van Der Poel, non è riuscito a, come dire, a vincere, no? Nessuno alla ruota di Dance oggi lo ha preso in castagna, insomma, l'ha superato sul traguardo. Per cui, come dire, è un paragone anche storico per un'azione di Dance nei chilometri finali, nei metri finali, anzi nelle centinaia di metri prima della linea bianca, veramente incredibile, di potenza, proprio di pura progressione da finisseur, mega finisseur, gli ultimissimi metri, non so, l'ho detto mille volte già, ultimissimi metri, basta. Sì, a me non ha ricordato per niente quella corsa, ma poi ognuno fa i conti con la propria memoria. Quello che mi ha colpito è stato che in realtà la volata, il primo sguardo, sembrava molto molto stretta. Addirittura io ero abbastanza lontano perché poi ho incontrato Gino Cervi, me ne sono stato in giro con lui tra il pubblico in due dita di fango a bordo strada guardandola sul mega schermo, per cui forse non abbiamo visto particolarmente bene, però è sembrata veramente una volata ristretta. Poi dopo il photo finish invece è emerso che gli ha dato quasi mezza bicicletta di stacco, però addirittura la sua esultanza a un certo punto mi ha fatto un po' sussultare. Sì, è stato un finale di tappa molto divertente, proprio per la dinamica, per come si è sviluppato col rientro ai 600 metri del gruppo di cui faceva parte Dance e G, oltre a Bettiol, che poi è il primo che ha lanciato la volata, l'ha lanciata troppo lunga, come ha detto lui nel finale, si è pentito di essere partito così presto, Alberto Bettiol, e il dispiacere per i tre che erano davanti, che avevano collaborato molto bene tra loro. E mi riferisco ovviamente a Oldani e Ballerini, soprattutto, che sono, oltre che colleghi di fuga, oggi grandi amici nella vita di tutti i giorni. E il terzo componente del terzetto, che era Scunch, che era Tom Scunch, ancora una volta protagonista in fuga. E quindi questo momento del ricongiungimento ai 600 metri e la volata in cui ancora una volta è partito davanti Dance ed è arrivato davanti. Facciamoci salutare, anzi facciamo salutare i nostri ascoltatori da Nico. Salutiamoli, Dance. Salutiamoli, ci sentiamo domani allora. No, abbiamo chiesto a Nico Dance un saluto in italiano, perché lui, sapete, ormai ne abbiamo parlato più volte, ha dei parenti, dei nonni in Italia, però non parla l'italiano. Oggi, visto che ha vinto la seconda tappa al giro, era incredulo, ha detto I am in the clouds, nelle nuvole, e ce n'erano in abbondanza anche oggi per perdersi nelle nuvole, per il buon Nico. Gli abbiamo chiesto, almeno dopo la seconda vittoria, di fare un saluto in italiano. Ed è questo che ci ha detto dopo l'arrivo. Ciao ragazzi! Grazie mille. Grazie a te, ciao Nico, bravo. Grazie, ciao ciao. Dance, che poi si è presentato appunto molto molto sorridente a parlare con tutti, e mi ha fatto sorridere anche a me, perché gli ho fatto una domanda ma non mi ricordavo quando avesse vinto la tappa precedente, perché mi ricordo qualche giorno fa, insomma, gli ho detto, e lui mi ha corretto dicendo non era l'altro ieri, ieri mi sono preso un giorno di pausa. Sì, ormai quindi dopo domani vincerà Nico Dance, al giorno di riposo vinceremo tutti. È in striscia positiva, è quella che nella pallacanestro si direbbe mano calda, alla mano calda, nel ciclismo come si può dire? La gamba che gira. La gamba che gira, mi sembra un buon modo. Beh, per... Gli scappa la gamba, o si gli dice scappa tecnicamente. La gamba. È vero, è vero. Leggiamo l'ordine d'arrivo della tappa, perché ha vinto Nico Dance su Derek G e Alberto Bettiol, che ha chiuso terzo. Quarto è arrivato Lawrence Rex, che si è staccato poi dal terzetto che si è andato a giocare la vittoria di tappa. E invece poi quinto Davide Ballerini, sesto Tom Squinch, settimo Marius Mayrhofer della DSM, Ottavo Stefano Oldani, nono Andrea Pasqualon e decimo Mirko Maestri. Tutti questi erano componenti della fugona della tappa di oggi. Il gruppo è arrivato, come abbiamo già detto, a oltre 20 minuti, a 21:11, con tutta la Ineos davanti in parata. Obiettivo raggiunto, se era il loro obiettivo perdere la maglia rosa, ma la classifica generale ve la diremo dopo. Adesso parliamo del secondo classificato della tappa di oggi, Derek G, che dopo l'arrivo, come tutti oggi, era stravolto, perché Michele, noi eravamo dopo la linea del traguardo e ci siamo proprio detti, abbiamo commentato insieme le facce che abbiamo visto oggi. Oggi è stata una tappa durissima, io ho visto delle facce dopo la linea del traguardo di oggi simili, paragonabili a facce che ho visto altre volte dopo tapponi dolomitici. Sì, spesso i nostri colleghi della TV hanno la priorità, intervistano per primo i corridori. Anche a loro i corridori hanno detto: no, scusate, torniamo ai pullman, perché freddo e acqua come oggi l'abbiamo mai presa in vita nostra. E quindi sì, veramente facce che urlavano stanchezza. Sì, perché anche oggi ha piovuto tanto, i corridori hanno scalato il Sempione, sono scesi dal Sempione con temperature estremamente basse, intorno ai 4-5 gradi, ma la faccia di G, oltre a essere stravolta dalla stanchezza, era delusa, perché è la terza volta che arriva secondo in questo Giro d'Italia. All'inizio era divertente, diceva il suo addetto stampa nel gazebo dopo la linea del traguardo, adesso sta diventando quasi una maledizione questo arrivare secondo al Giro d'Italia. Però nulla toglie il fatto che non sia ancora riuscito a vincere una tappa, non diminuisce il valore del Giro d'Italia che sta correndo oggi. A mio modo di vedere, la più grande rivelazione di questo giro finora, l'MVP, se vogliamo usare, come dire, termini di altri sport. Ci abbiamo parlato stamattina con Derek G ai bus prima della partenza. Non possiamo dire di essere stati noi la causa della sua buona prestazione di oggi, perché ormai le fa ogni giorno buone prestazioni, però andiamo ad ascoltare quello che ci ha detto oggi sulla sua settimana, perché nell'ultima settimana la sua carriera e la sua vita è decisamente cambiata. Ciao Derek, come stai? Good, how are you? Very good, thank you. So, 1 week after, we met last week, before your first breakaway, many things have changed. Yeah, it's been a good week. I've got no complaints. So, some of our listeners are saying that you told some lies to us when you said that you didn't like mountains, because it seems that actually you like them. I wouldn't say I liked them yesterday. It was a really hard stage, but no, I'm really happy with the legs. I didn't think I'd be up there on a stage like that, that's for sure. Can you explain us, how do you measure your mental weight yesterday? It's 58 kilos or something? Well, I was looking around and I was thinking everyone in the break was around that, you know, 56 to 63 kilos, and I was 75 and I thought, no, that's not right. Can't be up here at 75 kilos, so I had to pretend I wasn't. Dunque gli ho chiesto: Derek, è passata una settimana, ti abbiamo incontrato una settimana fa prima della tua prima fuga in assoluto al Giro e in un grande Giro, sono cambiate molte cose da allora. Sì, ha detto lui, è stata una buona settimana, non posso lamentarmi. Al che io gli ho detto: alcuni ascoltatori ci hanno detto di dirti che sei stato un po' bugiardo l'altra volta, perché ci avevi detto di non amare le montagne e invece ti abbiamo visto, come dire, scalarle con grande semplicità. E lui ha risposto: non direi esattamente che ieri mi siano piaciute. Sai, ieri è stata una tappa veramente dura, però sono felicissimo delle mie gambe, non avrei mai pensato di trovarmi là davanti in una tappa del genere, riferendosi alla tappa di Crans-Montana di ieri. E in questo poi gli ho chiesto: puoi spiegarci come hai misurato il tuo peso mentale ieri? Perché gli avevamo detto su Strava, aveva scritto 75 kg il mio peso fisico, 58 kg il mio peso mentale. Gli ho chiesto come l'hai calcolato questo peso mentale, e lui ha detto: insomma, mi sono guardato intorno e mi sono reso conto che nella fuga tutti erano intorno a quel peso, da 56 a 63 kg. Io invece peso 75 kg e mi sono detto: non può essere, non ha senso che io stia qui in mezzo, dovevo far finta in qualche modo che pesassi un po' meno. What did you discover about yourself in this week? A lot, honestly. I think just with the expectations I had going in, I've met them all and surpassed them by a lot. So, yeah, I've got a lot of confidence in my legs going forward. And what's still missing to get to the win? That's a tough one. I mean, it's the Giro, right? Like, getting a win isn't easy in any bike race, but with the caliber of the riders here, I think you just need the right combination of legs and luck. So you never know, maybe it'll come in the next couple stages. Did you hear someone along the roads in Giro calling your name? Because now people are starting to know you. It's pretty cool. Usually if I hear someone calling my name in a bike race, it's someone I know personally. So now I hear people cheering and saying my name, and it's cool. They're fans that I haven't met personally, which is, that's new for me. Especially there's one Canadian guy who I've seen at every stage who, he's a hero of mine. Keeps me going every stage. Do you know him personally, or is he? I don't. Some of my friends do, but no, I've never met him personally. Okay. Yeah. Do you have a nickname? I didn't ask you last time. I don't. Yet. No nickname yet. Maybe if I win one. Yeah, it's gonna come soon, I guess. Exactly. Grazie mille and congratulations. Thank you. E poi gli ho chiesto cosa hai scoperto su te stesso in questa settimana. E lui ha risposto molto, sinceramente. Ho mantenuto, anzi ho sorpassato tutte le attese della vigilia, di molto. E ho sempre più fiducia nelle mie gambe. Cosa ti manca per ottenere una vittoria? È stata la mia domanda successiva, che si potrebbe ripetere ai lui anche oggi. È una cosa difficile da dire, questo è il Giro. Vincere è complicato in ogni corsa, ma qui, con il calibro degli avversari che ci sono, serve la combinazione giusta di gambe e di fortuna. E non si sa mai, magari arriverà nelle prossime due o tre tappe. Hai sentito qualcuno lungo la strada chiamarti per nome? Perché ormai la gente qui comincia a conoscerti, non sei più uno sconosciuto. Sì, ha risposto Derek, questa è una cosa molto bella. Di solito se sento qualcuno chiamarmi col mio nome a bordo strada in una corsa, è qualcuno che conosco personalmente. Adesso invece sento anche gente che non conosco incitarmi, pronunciare il mio nome. È una cosa cool, ha detto lui, quindi bella. È una cosa anche nuova per me. E nello specifico c'è un tipo, un ragazzo canadese, che ho visto in ogni tappa. Secondo me è un eroe e c'è ogni giorno. Forse l'avete visto anche in TV, questo ragazzo con la bandiera canadese che lo insegue e lo cerca ogni giorno. E gli ho chiesto, lo conosci personalmente questo tifoso? Lui dice, no, alcuni miei amici lo conoscono, ma io no, non personalmente. E infine gli ho chiesto, ma hai un soprannome? Non te l'avevo chiesto l'altra volta. E lui ha risposto, no, non ho un soprannome, magari se dovessi vincere una tappa. E ho concluso io dicendo, secondo me succederà presto. Per poco oggi non è successo, però vogliamo lanciare un appello. Sì, appello che tra l'altro è già stato lanciato anche dai nostri amici del Cycling Podcast. Oggi abbiamo pranzato insieme e ci hanno detto che loro stanno raccogliendo proposte per un soprannome per Derek G. Per cui, vedi, senza metterci d'accordo Viene raccolto in lingua britannica e viene raccolto anche in lingua italiana questo appello. Sbizzarritevi con le vostre passioni aviarie. Nico Denz e Derek G sono due corridori con cui noi abbiamo parlato spesso e insomma sembra quasi che noi portiamo bene. Volevo dirvi che oggi i corridori non sono partiti, sono Samuele Battistella e Stefan De Bod, e il corridore non è finito è Alessandro Verre. Con tutti e tre abbiamo parlato in questo Giro d'Italia, per cui così è la dimostrazione, così controbilanciamo e non portiamo solo bene. Sì, come dire, è un bias quello del nostro portare fortuna. Bias che è un anagramma di Bais. Bravissimo. Sì, era anche anagramma di Basi, per esempio, o di Siba. È Siba? Un anagramma di Bais e di Bias e di Basi, per cui possiamo andare avanti a lungo, non tantissimo, sono solo quattro lettere, per cui non entro nel campo della matematica e di questi calcoli complicati, ma resto nel campo degli uomini in fuga e entro nel campo degli infanti del paese, nostra altra grande passione, perché questa mattina, mentre Leonardo parlava con Derek G., e mentre un ragazzo di nome Valentin si aggirava intorno al bus della Israel, mitico con, Valentin, con in mano una gigantografia di Matthew Riccitello, idolo. Si trattava di una card digitale per una specie di fantaciclismo, l'ha spiegato, adesso non scendiamo nel dettaglio. Siamo andati contemporaneamente anche al bus della Alpecin, dove i meccanici si sono complimentati per il vento, leggono al vento i meccanici della Alpecin e noi abbiamo chiesto, prima ancora che si cambiasse, abbiamo chiesto a Stefano Aldani di scendere e scambiare qualche parola con noi e ve le facciamo sentire. Ciao Stefano, buondì. Ciao, buongiorno. Come stai? Tutto a posto, un po' stanchino, ma tutto bene. Sì, hai la faccia un po' stanca, perché sì. Ti ho svegliato, stavi facendo un pisolino. No, è il sole che mi acceca, non sono abituato. Non siamo più abituati a vedere un raggio di sole. Oggi è una giornata in cui, non dico tappa di casa perché no, quasi, però non quasi, andiamo lontano. Sì, è vero, mi sono allenato per tanti anni su quelle strade. Diciamo che non spesso passavo da Cassano, ma spesso passavo dalla Valle Olona, così, quindi più o meno le zone le conosco, dai. La tappa è abbastanza facile da controllare, nel senso che c'è solo una salita lunga e vedremo per lo sprint. Stai provando un po' anche a buttarti negli sprint in questo giro o ti ci ritrovi per caso? No, in realtà io mi sono, quando sono passato professionista facevo le volate di gruppo, poi ho cercato un pochino più di specializzarmi sui percorsi un po' più duri e adesso, mancando Keden, mi sto ributtando un po' nella mischia e ho il vantaggio che sono abbastanza bravo a limare e quindi riesco ad avere delle buone posizioni e poi comunque, sai, dopo tappe difficili, dopo comunque 2 settimane di gara, magari io rimango un pelo più fresco rispetto ad alcuni velocisti. E poi sono cambiate molto le volate in questo giro, non abbiamo mai visto un treno, sono sempre volate un po' uno contro uno. Sì, perché alla fine le squadre non è che hanno tanti corridori, tra per chi ha il Covid, tra per chi è rimasto ammalato, le squadre si sono decimate. Senti, la vostra squadra l'anno scorso ha fatto anche molto show sulle strade, Ananas, chi più ne ha più ne metta. Quest'anno siete più tranquilli, è l'assenza di Mathieu che porta meno cazzeggio o state cazzeggiando uguale ma semplicemente non ce ne accorgiamo? No, sai, magari anche un po' il clima che mentalmente ci consuma un pochino, perché alla fine, sai, l'anno scorso c'è stato un clima spettacolare, ne parlavo anche con i miei compagni, alla fine abbiamo beccato forse 2 o 3 giorni di pioggia leggera, neanche freddo, quindi è stato davvero uno spettacolo. Quest'anno forse abbiamo beccato 2 giorni di sole, forse, mettiamola così, e quindi, sai, anche mentalmente questo clima consuma e non è facile rimanere sempre con la giusta attitudine, il giusto morale, magari anche quello. Torno un attimo all'anno scorso, è passato un anno esatto da un momento che probabilmente ha cambiato la tua carriera. Mi chiedevo quanto davvero l'ha cambiata e come sei cambiato tu in quest'anno passato da quella vittoria al Giro d'Italia. Ma sì, diciamo che ha dato comunque un boost alla mia autostima e un po', sì, mettiamola così, anche alla mia carriera, nel senso che ho iniziato a credere un pochino di più nei miei mezzi, era tanto tempo che non vincevo e quindi mi mancava quella sensazione di vittoria, no? Sicuramente mi ha ridato quella sensazione e la voglia di crederci sempre, che tuttora ho e ci sto provando. Anche l'altro ieri ho dato il massimo per essere nella fuga, anche se avevo mancato i tempi, sono ritornato sotto praticamente tirando praticamente da solo, perché mi hanno dato forse mezzo cambio e chiudere 1 minuto e mezzo da solo non è stato facile, però ci tenevo a essere davanti e poi a giocarmela dalla fuga. Non sono riuscito a giocarmela nel migliore dei modi, ma comunque l'attitudine c'è, la voglia di essere lì a giocarsela e di portare a casa un risultato pieno c'è. Perché comunque oltre alle volate anche le fughe sono belle incasinate in questo giro. È sempre stato difficile essere in fuga, quest'anno forse ancora di più, anche noi adesso siamo rimasti qua in 4, non è facile, sai, avere anche comunque un piano di squadra per riuscire a non entrare in una fuga di forza, perché poi servono anche tanto le gambe. Però il tuo giro l'avete finito in 2, eravate, quindi sei esperto io a squadra. Io mentalmente sono già forgiato sotto questo punto di vista, infatti glielo dicevo anche ai miei compagni. È ovvio che si cerca di arrivare il più integri possibile a livello di squadra alla fine. Ultima cosa, noi l'anno scorso abbiamo concluso il Giro d'Italia parlando con Dries De Bont, che diceva che tu sei velocissimo a imparare il nederlandese. Dice che sei attentissimo, che addirittura loro ormai quando sei vicino non sanno che tu li capisci. Chiedo se è vero, come va col nederlandese e se vuoi. Sì, è vero, un pochino lo capisco, sai, dopo 4 anni in una squadra belga ho imparato tante parole, sfortunatamente non riesco a parlarlo perché è tanto difficile, loro hanno tante sfumature di dialetto, non riesco a parlarlo, però a volte le conversazioni le capisco, so un po' di parole basiche tipo buon appetito, quelle cose lì che, sai, si dicono giornalmente, però non riesco a parlarlo, però lo capisco abbastanza, quindi devono stare attenti a quello che dicono. Tot morgen, a domani. Grazie mille Stefano. Niente. E bocca al lupo. Ciao. Grazie Stefano, ciao. al mattino dice che si buttano le volate e poi dopo passa un'ora invece si buttano le fughe il buon Stefano Aldani. Ed è il bello di questi corridori che effettivamente possono fare un po' tutto. Forse non vincono tantissimo, però sono super versatili e ci fanno sempre divertire e ci fanno anche imparare un po' il nederlandese. All'arrivo abbiamo parlato con Stefano Aldani e ha detto una cosa secondo me interessante. Ha detto: ho parlato col ballero quando erano loro tre con Skunch e eravamo d'accordo di non inseguirci a vicenda. Avrei attaccato io e non volevamo farci mettere nel sacco visto che siamo amici. Purtroppo dietro sono tornati nel sacco, sono stati messi alla fine. Ballerini, che è un altro di questi corridori che è molto versatile, può adattarsi a diversi terreni. Un altro ancora di questi, questa fuga ce n'erano talmente tanti che c'è l'imbarazzo della scelta, è Pasqualon. Della Bahrain, Andrea Pasqualon della Bahrain, sì. Che oggi era l'uomo della Bahrain, come dire, candidato a giocarsi la tappa. A sua disposizione c'era Sutterlin. C'era Sutterlin, sì. Che ha lavorato un po' nel tentativo di recuperare sulla fuga dalla fuga, non ci sono riusciti. Michele ha però incontrato Andrea Pasqualon dopo l'arrivo e ascoltiamo cosa ci ha detto. Hai qualcosa di asciutto addosso? Niente. Molta acqua, molto freddo? Ma sì, è stata una giornata da duri. Se sento ancora qualcuno che si lamenta di noi corridori, del lavoro che facciamo, li metto loro in bicicletta, perché forse oggi abbiamo dimostrato ancora una volta di che pasta siamo fatti. E mi dispiace veramente che tanti tifosi ieri si siano lamentati e oggi penso che abbiamo dato un grande spettacolo. E ancora una volta, insomma, i corridori fanno la loro parte e penso che si vede anche dalla mia faccia e da quanto abbiamo sofferto in queste due settimane di Giro d'Italia, quindi... Esausto e infreddolito Pasqualon, esausti e infreddoliti tutti i corridori che hanno preso parte a questa tappa, mi verrebbe da dire, senza eccezioni. Forse uno che ha superato in fretta la stanchezza e il freddo è stato Bruno Armirail, perché quantomeno si è messo sopra un'altra maglia all'arrivo, per cui quantomeno si è scaldato così. Sì, si è messo la maglia rosa, non subito perché ha dovuto attendere una ventina di minuti sulla hot seat. Si chiama hot seat anche quando non è un cronometro, quella lì, sì. Non so, secondo me non era particolarmente hot nemmeno no. Quella oggi ha dovuto attendere una ventina di minuti, però come mi ha fatto notare Gino Cervi all'arrivo su Wikipedia Francia era già segnato in maglia rosa. Sì. È la prima maglia rosa francese al Giro d'Italia dopo Jalabert, se non vado errato. Quindi quello... Jalabert nel 99, questa cosa gli è stata fatta notare a fine tappa. Lui non lo sapeva e ha fatto una faccia che, come ha detto un nostro amico Enzo Vicennati, che era in sala stampa con noi durante questa intervista, ha detto: ha fatto la faccia e deve aver pensato, me coglioni. Sì, è probabile che abbia pensato questo. Cioè, una generazione di francesi che ha prodotto corridori come Pinot e Bardet non è riuscita mai a indossare la maglia rosa, ce l'ha fatta oggi Bruno Armirail, che è in maglia rosa. Vado a leggere la classifica generale, perché adesso in testa alla classifica, abbiamo detto, c'è il corridore della Groupama FDJ, al secondo posto la ex maglia rosa Geraint Thomas a 1 minuto e 41. Poi a seguire Roglic a 1 e 43 e Almeida al quarto posto 2 minuti e 03. I distacchi tra i big della classifica generale sono immutati, c'è soltanto un altro nome in testa alla classifica. E quindi quinto è ancora Leknessund, sesto Caruso, settimo Kemna, ottavo Dunbar, nono Arensman e decimo De Plus. È uscito dalla top 10, guarda caso, Thibaut Pinot, che era decimo, il capitano della squadra di Bruno Armirail, adesso è fuori dalla top 10 ed è a 4 minuti e 54 dalla nuova maglia rosa, forse una delle più sorprendenti maglie rosa degli ultimi anni, possiamo dirlo? Ha guadagnato 22 posizioni oggi Bruno Armirail in classifica, più o meno quanti minuti che ha dato al gruppo il vincitore di tappa. E sì, è sorprendente, a me piace molto, io sono sempre contento ogni volta che nei grandi giri succede questa cosa, che il capo classifica si libera della maglia e arriva quello che meno ti saresti aspettato. Mi fa sempre piacere, perché mi metto sempre nella pelle, nei panni, magari la maglia rosa mi metterei volentieri nei panni di questi corridori che tutto sommato, cioè Bruno Armirai è un gregario, lo ribadisce continuamente, l'ha detto anche oggi, lui è qua a lavorare per Pinot, a lavorare per i suoi compagni, non è che adesso è cambiato il suo ruolo in squadra o il suo lavoro, però si è preso una gioia che gli resta per la vita, questa gioia qui, si è preso qualcosa di inaspettato che è più di un sogno probabilmente. Lui ha detto che è raro per un gregario avere il privilegio di poter indossare la maglia rosa e quindi niente, sono proprio felice. Sì, tra l'altro lui non ha mai vinto una corsa in carriera, ha vinto solo il campionato francese a cronometro che, essendo appunto una prova a cronometro, si conclude senza alzare le braccia al cielo. Quindi Bruno Armirai non ha mai alzato le braccia al cielo da professionista nella sua carriera e si vedeva anche quando è venuto in conferenza stampa che era un po' impacciato nella postura, nel movimento, era una cosa nuova, assolutamente inedita per lui, però ha mantenuto una gentilezza che penso sia un tratto del suo carattere, che mi ha colpito. Sono contento anch'io. C'è forse qualcosa... E poi volevo dirti, Leonardo, che ci ha svelato anche che la sua compagna è italiana. È vero, e ha specificato anche sua suocera, per cui ti aspetta una telefonata nei prossimi giorni, visto che ormai ti sei specializzato in questa versione Chi l'ha visto di Geronimo. Dovrai chiamare anche la suocera di Armirai. Suocera pordenonese, si dice pordenonese. Devo andarla a trovare dopo la tappa del Monte, arriva a Monte Lussa. Adesso questo non dimostriamo che non ci ricordiamo più niente, nemmeno dove siamo, però da quelle parti ci si passa. Ci si passa, magari faremo in tempo a parlare con la suocera della maglia rosa. Chissà se sarà ancora maglia rosa quando arriveremo da quelle parti, non credo. Bruno Armirai. C'è forse qualcosa da dire sulla scelta della Ineos, che a quanto abbiamo capito è stata una scelta pensata, non è stata un'improvvisazione quella di decidere di lasciare la maglia rosa oggi, alla vigilia di una tappa, quella di domani, in cui forse alla Ineos conviene non avere il peso tattico, soprattutto della maglia rosa, che è tenuta in un certo senso a controllare la corsa. Domani è una tappa difficilmente controllabile. Sì, e poi dobbiamo considerare anche che la maglia rosa, con l'acqua che è venuta giù nelle ultime 48 ore, pesa un sacco. Sì, cioè sarà bella inzuppata. Sì, anche. E aggiungo ancora sulla scelta di Thomas e della Ineos, si è liberato dell'impiccio di andare sul podio, di venire a parlare con noi. Ieri ce l'aveva detto: ragazzi, io sono felice di parlare con voi mezz'ora al giorno, però se potessi evitarlo non mi dispiacerebbe. Sì, sì. Perché insomma alle 6 di pomeriggio concludere tutte queste operazioni per un leader non è mai semplice. È vero, come hai detto prima, Filippo, è bello, piace anche a me quando a un certo punto viene fuori questo nome strano che prende la maglia rosa. È un po' tardi però all'interno del giro, questa è la 14ª tappa, no? Siamo alla vigilia della terza settimana. Di solito questo è un cambiamento che avviene nella prima settimana, nella prima parte del giro. È avvenuto un po' avanti rispetto al solito, in modo sorprendente. E quindi ce lo prendiamo così com'è, siamo di fronte a qualcosa di inaspettato e di solito le cose inaspettate non sono brutte. Prima maglia rosa di nome Bruno since Bruno Leali, che è una leggenda. Filippo Cauz alza le braccia al cielo. E poi mi riporti a una gioia esattamente equivalente. Giro del 93, non mi ricordo che tappa era, ma adesso vado a controllare. Era l'11ª più o meno, per periodo era più o meno questo. Indurain aveva il giro in mano e lasciò andare una fugona da lontanissimo Bruno Leali, che era già bello vecchio, correva nella Brescialat, se non ricordo male, quell'anno lì, e niente, bello. Non so, magari ci sono state altre maglie rosa di nome Bruno dopo Bruno Leali. La tappa in cui Bruno Leali diventò rosa fu la Sinigallia ed Ozza. Ne approfittiamo per mandare un saluto e un incoraggiamento a chi vive in quelle zone in questo momento. Assolutamente sì. Direi siamo sul punto di cambiare pagina. Aggiungo soltanto un'ultimissima cosa, che forse Geraint Thomas ha anche pensato bene di, come dire, sottrarsi alle domande che inevitabilmente gli sarebbero state fatte su questa polemica che ancora continua rispetto a quello che è successo ieri, la scelta dei corridori di accorciare la tappa. Se fosse successa una cosa del genere in passato, lui stamattina ha dichiarato, no, di non voler ispirarsi ai corridori degli anni 80 e 90 perché è orgoglioso di non ripetere cose fatte in quegli anni. Sì, se dà risposte così da bambino delle medie, forse siamo contenti anche noi di non sentire più le sue risposte in conferenza stampa. No, secondo me ha un punto. Credo che ci sia il dibattito su questa cosa si sia veramente incancrenito. Si è polarizzato e ormai si va avanti a sberleffi come questo di Thomas. Forse meno male che abbiamo girato pagina con una nuova maglia rosa, ed è anche uno stimolo a girare pagina anche noi. Sì, sì, certo, io credo che ci siano punti interessanti in questa discussione, anche in quello che ha detto Thomas con i suoi modi, ma lo lasciamo ai prossimi giorni, speriamo che si possano abbassare i toni in questa polemica. Noi invece alziamo il volume perché è arrivato il momento. Sai chi gira pagina spessissimo? No. Chi legge tanti libri. Ah, ok, ho capito. Benvenuti al nostro consueto angolo del libro. Oggi siamo in compagnia di Beo Marzio, che ci parlerà del suo nuovo libro I ciclisti non hanno la lingua. Ben trovato, Beo. Salve a tutti. Ci parli del suo nuovo libro? Beh, il libro nasce da una riflessione. Ha mai visto un cane dopo una lunga passeggiata? Sì, certo. È stanco, ha la lingua di fuori. E perché? Perché ha la lingua di fuori? Perché è stanco. Come mai i ciclisti a fine gara, dopo tanti, tanti chilometri, non mostrano mai la loro lingua? Immagino innanzitutto perché non sono cani, ma dei professionisti che reggono la fatica. No. Non la mostrano perché non ce l'hanno. Ah, non ci avevo mai pensato. Ma come fanno a parlare, a rilasciare interviste? È la tecnologia, internet fa tutto. Si spieghi meglio. Probabilmente hanno un dispositivo elettronico, tipo un Walkman, che attaccano un microfono, che ha un lungo cavo che gli dà voce quando serve. È una teoria molto affascinante. No, non è una teoria, è un complotto. Ma un complotto contro chi? Contro noi, i cittadini, succubi di questi poteri forti. Veramente interessante. Allora non mi resta che darvi appuntamento in libreria con I ciclisti non hanno la lingua di Beo Marzio. State attenti! Al prossimo libro! Finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Sì, vabbè, mettiamola così. Mi ha ricordato un po' la polemica che è venuta fuori sull'elicottero, no? Sull'aereo. L'aereo della televisione che ha provocato le piogge di questi giorni. Non diamo ulteriore spazio a queste posizioni, mentre a quelle di Beo Marzio gliene darei molto. Parente di Anco Marzio. Credo di sì, se vuoi telefonare ad Anco Marzio. Io telefono solo ai nonni, o alle suocere potrei pensare. Questo è un avo un po' più lontano. È una cosa che ho sempre pensato anch'io che avvenga, soprattutto che comunichino con dispositivi elettronici tipo Walkman. E può quindi essere, vabbè. Può darsi, lo indagheremo, nei prossimi giorni indagheremo e poi scriveremo a Beo e ci confronteremo con lui, già da domani, e chissà che tipo di dispositivo elettronico ha utilizzato per parlarci, per introdurci la tappa di domani, il corridore che l'ha fatto per noi, cioè Simone Consonni della Cofidis, che siccome è un corridore, un ragazzo, un uomo di Bergamo, ci parla della tappa, a modo suo, della tappa che domani arriverà a Bergamo. Purtroppo le strade le conosco bene, perché in questi casi, soprattutto da buon velocista che fa fatica in salita, le tappe di montagna è meglio non guardarle. E che dire, si inizia dal valico di Valcava, penso la salita più dura di tutta Bergamo, dopo 36 chilometri, e sicuramente è un posto bellissimo. Secondo me, se è una bella giornata, stare in cima a Valcava per fare una bella costinata con magari qualche birra sarebbe veramente il top. Anche perché da lì si scende e Bedulita praticamente si vedrà il passaggio due volte, quando poi dopo si risalirà dalla Roncola, che è la salita di Bergamo. Cioè la Roncola, se sei bergamasco non puoi non fare la Roncola, anzi ci sono amatori che fanno della Roncola su e giù il loro allenamento, il loro pane quotidiano. E da lì in mezzo c'è anche il Selvino, che anche lì è una salita dove praticamente è battuta tutti i giorni, un giorno sì, un giorno sì, da amatori anche da noi professionisti, perché è perfetta per fare i lavori di forza. E che dire, ovviamente la voce grossa di questa tappa la fa Bergamo, la fa il centro. Non lo dico perché è la mia città, ma penso che sia uno dei centri più belli che abbiamo in Italia. Ci vado spesso anche con la mia ragazza per fare una passeggiata, per rilassarmi, per andare a cena soprattutto. La sera è piena di ottimi ristoranti dove si può assaggiare un ottimo coniglio polenta con un bel bicchiere di rosso per accompagnare. E quindi ecco, che dire, un invito a tutti a venirci a vedere questa bellissima tappa e poi sicuramente fermarsi dopo l'arrivo per cenare, per gustare e apprezzare tutte le specialità del posto. Ottimo consiglio di Simone Consonni, non seguitelo domani. Domani sera non andate a cena nei ristorantini del centro di Bergamo, ma andate dai nostri amici di Bike Fellas, via Gaudenzi 54, dove Giovanni Visconti e Enzo Vicennati presenteranno il nuovo libro Un primo e 60 secondi insieme al sempre ottimo Gino Cervi. Sì, non perdete questo appuntamento, tutto questo avverrà dopo la fine della tappa, perché vedremo tutti quanti dalle strade, dalla TV. Si spera. Si spera che per le 21 la tappa sia conclusa. Sì, dovrebbe finire. La nostra registrazione è difficile, ma almeno la tappa... anche essere il sole domani, ma non diciamolo ad alta voce. Invece ad alta voce chiediamo a Michele di declamare gli aspetti tecnici in breve della tappa di domani. Com'è questa tappa? Tappa goduriosa, quasi 200 chilometri da Seregno a Bergamo, oltre 4000 metri di dislivello. Ci sono tutte le salite più note e del Giro di Lombardia e della Bergamasca in generale: Valico di Valcava, Selvino, Miragolo, primo passaggio sulla Boccola, lo storico strappo in lastricato che porta a Largo Colle Aperto in Città Alta a Bergamo, Roncola, di nuovo la salita della Boccola per il traguardo in centro a Bergamo, sarà bellissimo. Sì, lo speriamo tutti. Come al solito mi serve qualcosa di più concreto, un nome, uno o due anche se vuoi. Se vuoi anche evitare i nomi, invece dimmi come immagini, come dire, la lotta per la classifica generale domani, se la Ineos riuscirà a tenere la corsa chiusa, se Roglic ci proverà. Sono due squadre a questo Giro d'Italia che hanno ancora tutti e otto i corridori al via domani, ed è la Jumbo-Visma. Domani Roglic fa tappa e maglia, è un pronostico vessillologico perché nella bandiera slovena, come nelle quattro bandiere dei vestitori di maglia rosa finora, c'è il rosso. Quindi... un attimo, devo fare ordine in tutto questo. Sì. Nella bandiera della Slovenia c'è il rosso, va bene, sì. Su questo siamo d'accordo, in tante bandiere del mondo c'è il rosso, tra cui quella slovena, e poi tutti gli altri vestitori di maglia rosa di questo giro vengono da paesi che hanno il rosso nella loro bandiera. Esatto. Mi sembra un ottimo motivo per... prevedere la vittoria di Roglic domani. Bello, io lo ascolterei. Divertiamoci con le bandiere con Michele Pelacci. Comunque spero venga proposto al più presto su tutti i canali più celebri. Domani tappa sul percorso del Giro di Lombardia. Pronostico facile, facile. Domani vince Thibaut Pinot. Ok, mi piace, però la domanda è: come vince Thibaut Pinot? Dalla fuga? Attaccando dal gruppo dei migliori? Ma attaccando dal gruppo dei migliori, che non sarà così selezionato, un gruppo di una quindicina di corridori, e tra questi attacca il buon Thibaut Pinot. E maglia rosa? Maglia rosa, ma fatemi sognare, ancora Bruno Armirail. Leonardo ci sta mettendo in difficoltà con domande molto puntuali e addirittura lo svolgimento della tappa. Leonardo, adesso vogliamo sapere chi vince, a che chilometro attacca. No, adesso a che chilometro attacca non lo so, secondo me abbastanza presto, perché adesso sentirete qual è il mio nome per la tappa di domani. Non credo che ci saranno grandi screzi tra gli uomini di classifica, che hanno tutto l'interesse ancora una volta a conservarsi per quello che sarà la settimana prossima. Felice di essere smentito da Roglic, per esempio, a cui si adatta molto bene il percorso di domani, però il mio favorito per la tappa di Bergamo è Ben Healy. Ben Healy della Education First, che non abbiamo visto protagonista né oggi né negli ultimi 2-3 giorni, secondo me proprio perché ha messo nel mirino la tappa di domani. L'abbiamo sentito in apertura, non a caso, perché e non solo nemmeno perché è il mio favorito per domani, perché ci abbiamo parlato, e quindi ci abbiamo parlato anche per alcuni minuti, per 5 minuti, per conoscerlo un po' meglio, un corridore giovane al suo primo grande giro, e quindi adesso vi facciamo ascoltare alcuni estratti dalla nostra chiacchierata con Ben Healy della Education First. Ben Healy, buongiorno. Hi. Come stai? How are you? Yeah, I'm good. The race is definitely taking its toll, but I'm doing good, I think. So you passed the half of your first ever Grand Tour. Have you learned something about yourself as a rider in this days? Yeah, I mean, I think I've just learned how hard Grand Tours are, you know, and being a GC guy is for sure a very stressful job, like just being switched on day after day, and I'm kind of enjoying the days where I can just sit up and let them guys go race, so I think I've learned that, it's nice to take it easy sometimes. Dunque, avete sentito come stai? La prima domanda, sto bene, ha risposto Ben, la corsa comincia a farsi sentire, ma io credo di stare ancora bene. Abbiamo superato ormai la metà del tuo primo grande giro in carriera. Che cosa pensi di aver imparato? Beh, sto imparando intanto come funziona un grande giro e lo stress che comporta, per esempio, curare la classifica generale, un lavoro che richiede essere concentrati. Purtroppo non ha detto focussati, ha usato un'altra locuzione. Tutti i giorni. Io in questo momento mi sto godendo i giorni in cui posso stare tranquillo e lascio agli altri fare la loro corsa. Quindi sì, forse posso dire di aver imparato che a volte è bello prendersela comoda. Take it easy, ha detto lui sorridendo. La seconda domanda che gli ho fatto riguarda il suo essere un ciclista diverso nella storia, perché lui ha deciso di lasciare per esempio l'Inghilterra, il Regno Unito e trasferirsi in Irlanda, ha lasciato la pista soprattutto, è cresciuto sulla pista ma ha deciso di continuare da solo in un altro paese, con un'altra squadra poi. E poi il suo stile sia di pedalata sia di come si presenta davanti al pubblico, è una storia di differenza, di persona e corridore diverso. È un tuo obiettivo? Vuoi essere diverso? I just try and be who I want to be, you know. I don't try and go out of my way to be different. I just don't really care what other people think, you know. It's just, I do my thing, and if people perceive that as different, then that's fine with me. Do you still have time to meet your friends and hang out with them? Not so much anymore. Like living in Girona and not really, where I grew up anymore. It's hard to go see people, but every now and again, with messages on social media now, and that's the best we can do at the moment, I think. Do you have a favorite pub when you hang out when you go home? Not so much really. I mean, there's like growing up in the UK, there's pubs everywhere, but there's maybe not one that I've like gone back to repeatedly or a local, as you would say. E Ben Healy ha risposto semplicemente: io cerco di essere quello che voglio essere, la persona che voglio essere. Non punto a essere diverso. Semplicemente non mi importa quel che pensa la gente. Se la gente che pensa che io sia diverso, a me va bene così. Io gli ho chiesto poi: hai ancora tempo per incontrare i tuoi amici e passare del tempo insieme a loro? Non molto, ha risposto lui. Adesso vivo a Girona e per me non è semplice vedere altre persone, però ci sentiamo spesso sui social con i miei amici e questo è quanto, quello che posso fare in questo momento. Hai un pub preferito? Perché lui ci dà l'idea di essere un frequentatore di pub, o magari lo è stato in passato. Assolutamente. Assolutamente dall'idea. Dall'idea, non lo sapevo, da qui la domanda. E ha risposto: no, non credo di avere un pub preferito. Ovviamente vengo dal Regno Unito, un posto dove ci sono pub ovunque, però non me ne viene in mente uno che frequenti ripetutamente, o comunque che possa considerare il mio pub. What about your passion for the big cities? Is it true? Yeah, I for sure like the city, you know. My girlfriend's in university in London at the moment, and I've got to spend quite a bit of time there, and it's a place that I really enjoy. What's your favorite city in the world? Yeah, I mean, I'm not actually that well traveled, I don't think, so I think I just have to go with London for now, but for sure I can branch out and explore some more places in the future. La domanda successiva riguardava la sua passione per le grandi città, che abbiamo scoperto essere una sua passione dal sito ufficiale dell'Education First. Gli ho chiesto: è vero? Ilia ha risposto sì, amo le grandi città, la mia fidanzata frequenta l'università a Londra in questo momento, quindi passo lì un bel po' di tempo ed è un posto che mi piace parecchio. Qual è la tua città preferita nel mondo? E Ben ha risposto, beh, non è che abbia viaggiato tantissimo finora, quindi per ora rispondo Londra, però ovviamente mi piacerebbe conoscerne di più in futuro. I would like to go back to your position on the bike. Do you think this is the final version of your position, or you are still working on it? What you would like to achieve at the end? Yeah, I mean, I think it's just something that everyone works on year to year. You know, it's if you have a little niggle, you can change, or if an improvement, you can get can see that as well. But yeah, the equipment is all sorted by the team, and I have good trust in them that they improve that year on year. And then the position is just what I'm comfortable with, and obviously it's optimized to be as fast as possible. But doesn't necessarily mean that I'm uncomfortable on the bike or making huge sacrifices in power output or anything like that. Ovviamente gli ho fatto una domanda sulla sua inconfondibile posizione in bicicletta. Gli ho chiesto, credi che sia definitiva o ci stai ancora lavorando? E lui ha detto, beh, penso che tutti continuino a lavorare sulla loro posizione in bicicletta, piccoli miglioramenti che possono fare la differenza. Poi c'è tutta la questione dei materiali e qui è molto importante anche la squadra. Io ho fiducia nella mia squadra in quello che fanno anno dopo anno. Sulla mia posizione, certo, è ottimizzata per andare il più veloce possibile. Però non è detto che questo significhi fare dei sacrifici particolari. Io la trovo comoda, così com'è. You have been with Magnus, a roommate of him in the first week of the Giro, I guess. I think that was the most winning room in the Giro. How is being with him? How does he help you? And how is the spirit? Yeah, super nice vibe, you know. He's just a relaxed guy and obviously has a lot of knowledge and information he can share with me. And yeah, just a super fun roommate to have. Who picks up the music in the room when you're together? I'd say Magnus. Okay. Yeah. And what's his favorite? I think he likes a bit of rock, to be honest. So, yeah. And what about yourself? Yeah, I'm more like EDM or DMB maybe. So a little bit different to music taste, but yeah, it works though. Grazie mille, Ben. Prego. Ciao. E da ultimo gli ho chiesto, sei stato in camera con Magnus Cort Nielsen nella prima settimana del Giro? Perché dovete sapere che la IF ruota le camere dei suoi corridori, non sono fissi a coppie per tutto il Giro. Cort Nielsen e Ely sono stati compagni di squadra nella prima settimana e in quella settimana hanno vinto entrambi una tappa e gli ho chiesto come si sta con uno come Magnus Cort, cosa ha imparato e qual è lo spirito in generale nella squadra grazie a un personaggio così. E Hill ha risposto super nice vibes, quindi sensazioni molto positive, super positive. Lui è un ragazzo tranquillo, rilassato, ha tanta esperienza, possiede informazioni che condivide con me ed è veramente un grande compagno di stanza. Domanda scontatissima, chi sceglie la musica tra i due quando siete in camera insieme? Magnus, Cort Nielsen, ha risposto Hill. E qual è la sua musica preferita? Gli ho chiesto. Beh, penso che a lui piaccia soprattutto il rock. E a te invece, gli ho chiesto, io sono più un tipo da EDM, quindi musica elettronica, electronic dance music dovrebbe essere, oppure DNB, che è drum and bass, giusto? Giusto, giusto. Nonostante venga da Birmingham, la capitale dell'hard rock inglese, eppure, vabbè. E più sull'elettronica, e abbiamo gusti molto diversi, ha concluso lui, io e Magnus, però funzioniamo bene così, quindi tutto ok. Tutto ok questo giro per Ben Healy, che ringraziamo per la sua disponibilità, come tutti i corridori che sono disponibili a parlare con noi. Noi portiamo bene, portiamo male, portiamo medio, per cui non scegliete in base agli aruspici. Che dire di altro di questa giornata? È stata lunga, è stata fredda, umida. Noi l'abbiamo trascorsa per lo più in automobile, per cui di pioggia ne abbiamo presa pochina, qualcosa andando all'arrivo, ma insomma... Qualcosa fermandoci al... Dove ci siamo fermati, Michele? Subito dopo il Sempione, in questo... Oltre il confine italiano, quindi in Italia, perché altrimenti quel panino al prosciutto ci sarebbe costato un rene. In Svizzera invece l'abbiamo pagato il giusto. Località che Ora dimentico, non okay. Ricordo il nome sinceramente, ma lo scriveremo magari sul gruppo Telegram, ecco così. Per chi fosse interessato. Sì, esatto, un buon panino comunque. Un buon panino il prosciutto, senza dubbio. Il resto della tappa l'abbiamo percorso in automobile, siamo arrivati a Cassano Magnago, che saprete essere la cittadina di nascita di Umberto Bossi. Sì, ma non solo. Che non abbiamo intervistato. No, non abbiamo intervistato. E abbiamo intervistato Basso. Colui, il personaggio a cui è stato intitolato anche un liceo, se liceo non sportivo, liceo sì, sportivo. Vicino all'oratorio dove c'era il catering e il cui bar aveva la maggior ricchezza di caramelle Goleador che io abbia mai visto e aveva un amaro al peperoncino che aveva un effetto tipo cocaina, cioè ultra energizzante. Non lo sapevo e non l'ho assaggiato, mi sarebbe piaciuto molto. Errore tuo, Leonardo. Errore mio. Cassano Magnago è la città natale di Van Basso e noi siamo andati, abbiamo avvicinato Van Basso questa mattina non per parlare di Cassano Magnago, ma perché ci tenevamo a fare un ricordo di un corridore che è scomparso ieri, che è Arturo Gravalos, corridore della Eolo, formazione guidata da Van Basso. Non ne abbiamo parlato ieri perché non eravamo riusciti a parlare con nessuno della Eolo e ci tenevamo che fosse una loro voce a ricordarci questo corridore. Vi lasciamo con questo ricordo, con le parole di Van Basso. Vi salutiamo, noi ci vediamo domani a Bergamo, noi tre ci vediamo tra poco in pizzeria o dove sarà. Grazie e a domani, direi. A domani. Adios, come dice Gianni Savio in Sud America. Ivan, buongiorno, oggi arriviamo a Cassano Magnago e dovrebbe essere un giorno di festa, però per voi anche sono giornate tristi. Purtroppo non si è mai pronti, anche se purtroppo sapevamo ormai da tempo della gravità della situazione. Un paio di volte ci abbiamo creduto che potesse riprendersi, perché è stato un percorso di un anno e mezzo difficilissimo e ultimamente sapevamo ovviamente che la situazione non era facile, però riteniamo che il modo migliore, lui è sempre stato in contatto con i suoi compagni, è il modo migliore di ricordarlo e di fare qualcosa di buono e correre forte, e se riusciamo a vincere penso che sia la cosa migliore che la squadra possa fare, perché anche lui lo vuole sicuramente, no? Io so quanto lui è stato vicino alla squadra in questo periodo della malattia e quanto ci teneva che i suoi compagni andassero forte, quindi noi dobbiamo stare qua al giro concentrati e non solo concentrati, dobbiamo utilizzare questo momento delicato per tirar fuori ancora più risorse e ancora più voglia per ottenere un risultato in onore a lui. Noi non l'abbiamo mai conosciuto, Arturo, sì. Le nostre corse in cui ci siamo non c'era mai stato, per cui non abbiamo mai avuto modo di incrociarlo. Possiamo chiedere solo un ricordo in tre parole, quello che ti viene. Ma un ragazzo giovane, solare, che viene diciamo dal nostro settore giovanile, un corridore che un ragazzo che ben voluto da tutti, sai, proprio aveva nella sua simpatia, nella sua capacità di stare insieme agli altri, una delle migliori qualità. Quando perdi un compagno o un componente della squadra è sempre un momento doloroso, però ritengo che chi fa parte di questa famiglia e vive un momento di dolore, l'unica cosa che può fare è appunto correre forte e cercare di farlo anche per loro. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie, Ivan.